awareness of our common dangers. It's been unbelievable. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Where's Michael? Beh, con tante brutte notizie in orbita sul mondo in queste ore, ci vogliamo prendere una pausa a partire da una notizia piacevole, magari un po' malinconica, che sta a sua volta facendo il proprio percorso, il proprio giro del mondo. È uscito, è stato presentato ieri a Los Angeles This Is It, questo è quanto, questo è tutto, il film postumo, se possiamo dire così, di Michael Jackson. E ha destato alla platea di VIPs, critici, appassionati, fans, ha destato una notevole impressione. Il film è stato realizzato da Kenny Ortega, che è il coreografo di fiducia degli ultimi anni di Michael, e quello che stava lavorando a strettissimo contatto con l'artista sulla preparazione di questo show mai nato, mai visto, no? Quello che sarebbe dovuto andare in scena per una cinquantina di repliche a Londra, e nel quale l'artista, forse per l'ultima volta, sembrava, si diceva, sarebbe presentato al suo pubblico e avrebbe dato semplicemente il meglio di sé, che ora invece, sotto forma di prove, ma anche di confessioni, di backstage, di piccoli sguardi al buco della serratura nella vita privata e soprattutto nella vocazione artistica di Michael Jackson, dobbiamo contentarci di vedere al cinema. Pare anche per un tempo limitato, il film almeno sembra annunciato con una circolazione limitata, che avrà luogo naturalmente anche nelle prossime ore in Italia, come in tutto il resto del mondo. Quel poco che se n'è per ora visto è, devo dire, entusiasmante, scusate la banalità, ma in un certo senso il fatto stesso che fosse un film non pensato, no? Non progettato, e quindi realizzato montando la naturalezza della procedura da palcoscenico, delle prove di uno spettacolo, restituiscono al mondo, che si è accorto tardivamente di aver perso un grande artista, una versione scintillante di Michael Jackson. Quindi una occasione, non dico di fare del cinema verità, del quale peraltro torneremo a parlare nella puntata di oggi di Buongiorno America, ma insomma di avvicinarsi all'artista, un artista unico, con una angolazione sicuramente originale. Primo piano. At least 12 people, including six United Nations staff, have been. Ecco la pioggia di brutte notizie. Nella fattispecie ci occupiamo di politica estera, nella fattispecie ci occupiamo di Medio Oriente e di tutto quello che sotto forma di serializzazione delle stragi sta arrivando da quelle parti. Insomma, abbiamo parlato ieri in trasmissione anche con ospiti delle perdite americane in questo momento in Afghanistan, delle incertezze che regnano attorno alla opportunità reale, al di là delle prese di posizione di circostanza, di mantenere la missione. Ma in realtà poi quelle cifre a loro volta impallidiscono di fronte a quanto paese per paese sta accadendo. Sono 90 ormai le vittime accertate in un attentato a Peshawar, che si teme che salutino l'arrivo del segretario di Stato americano Hillary Clinton in Pakistan. 90, quasi tutte donne, che stavano per l'appunto in quelle ore frequentando un mercato. I mercati, come sapete, sono l'obiettivo prediletto dei kamikaze in queste circostanze, in questi casi. E siamo nel momento del dubbio, no? C'è la tentazione americana di trovare rapidamente una via via d'uscita dall'impegno in Medio Oriente. Il prezzo in vite sta diventando forse inaccettabile, però dall'altra parte c'è uno scenario che invece sta aggravando i propri lineamenti. Quello che accaduto in Afghanistan fa anch'esso parte delle cronache delle ultime ore, per non parlare dei 155 morti di Baghdad, che sono invece cronache dell'altro ieri e in quanto tale già archiviate. Se capite, se ragionate, se pensate, se fate mente locale, è un succedersi di notizie oltre la tragedia, oltre il lutto. Comunque sapete, ci sono anche le Nazioni Unite nel mirino dei talebani, l'avvio del ballottaggio tra Karzai e Abdullah per le votazioni che si terranno per fortuna il 7 novembre, quindi in modo assai ravvicinato, sta scatenando la rincorsa a provocare una situazione di totale instabilità in Afghanistan. In questo caso gli studenti del Corano, così si fanno chiamare, hanno colpito nel cuore di Kabul. Ci sono 6 dipendenti delle Nazioni Unite, tra cui un americano, 2 guardie di sicurezza, un civile e 3 kamikaze rimasti sul terreno, mentre il New York Times apre la sua edizione di oggi titolando che il fratello del presidente afghano Hamid Karzai, il molto chiacchierato Ahmed Vali Karzai, sarebbe a sua volta un collaboratore della CIA e negli ultimi anni avrebbe intensificato il proprio lavoro al servizio della centrale informativa americana, personaggio compromesso dal quale Barack Obama vorrebbe a tutti i costi prendere le distanze. E anche su questo argomento ci risiederebbero alcune delle ragioni della presa di posizione dell'amministrazione Obama nei confronti dei Karzai e della sua equipe e del suo team. Ma ora arriviamo invece a una notizia americana, a sua volta brutta, ma di cronaca interna. The man that I was married to for 12 years, who fathered 3 children with me, wanted me dead. That is something I still have not. La voce che ascoltate è quella di Mildred Muhammad, la ex moglie di un uomo che si chiama John Allen Muhammad, che è il titolare del massacro, dei massacri che avvennero per lungo 3 settimane nell'ottobre del 2002 lungo le autostrade della zona, dell'area di Washington DC. Forse ricorderete il cecchino, lo sniper, l'uomo a lungo misterioso che sparava sulle macchine dei commuter, dei pendolari in transito su quelle autostrade, fino a provocare 10 morti e una lunga lista di feriti. Quest'uomo era per l'appunto l'oggi 49enne John Muhammad, un uomo che la moglie ricorda ben diverso da quello che sarebbe diventato. Lo ricorda come un uomo tranquillo, anzi volonteroso, pronto a essere disponibile per ogni necessità, e un padre di famiglia che poi parte per il servizio militare professionale durante la guerra del Golfo e torna completamente differente. Si iscrive alla Nazione dell'Islam, mentre fa parte dell'organizzazione di Farrakhan, ne diventa per un certo periodo anche una guardia dell'ordine durante ad esempio la marcia del milione di uomini a Washington. Poi inventa, progetta un disegno completamente devastante dal punto di vista di una visione che ormai evidentemente ha perso il contatto con la ragione, e con un piccolo seguace, che un giovane che ha plagiato, semplicemente sedicenne, comincia questa sua pratica di morte sparando sulle macchine che passano sulle autostrade, perché poi intendeva dar vita a una vera e propria escalation di violenza che per fortuna è stata fermata per tempo. La notizia è che il 10 novembre quest'uomo, John Muhammad, finirà non sulla sedia elettrica, perché non è la morte che gli è stata comminata, ma riceverà una iniezione letale per volere del Tribunale della Virginia. Well, you know, we have to give respect to the laws of the land. And a jury of 12 people decided. Ricominciano dunque le condanne a morte eseguite, sono estremamente imminenti, mancano poche ore a questa di John Muhammad. E questa è la voce di sua moglie, della sua ex moglie, che interrogata da Fox News dà il suo parere sul terribile verdetto. Dice: se così la legge degli uomini ha voluto, se così la giuria ha deciso, John deve andare incontro al suo destino. Una rassegnazione che raramente viene espressa con una simile freddezza, con un simile distacco, con una simile rassegnazione. Di fatto è un altro episodio che si lega a una catena che continua a non interrompersi. Questa è l'America delle ore pesanti, delle ore delle notizie brutte che si rincorrono dall'estero e anche dall'interno. Poi appunto viene voglia di prendere una boccata d'aria. Buongiorno America. This is Michael Moore. I am here to make a citizen's arrest of the board of directors of AIG. From Michael Moore. Dunque il 30 ottobre non esce soltanto il film di Michael Jackson di cui abbiamo parlato in apertura, ma esce anche Capitalism e Love Story, il nuovo film di Michael Moore, presentato tra l'altro alla Mostra del Cinema di Venezia e dedicato al tema del crack finanziario americano. E negli stessi giorni sta uscendo anche la monografia che Federico Ferrone, regista, critico cinematografico, ha dedicato a Michael Moore per Il Castoro, nella celebre collana di monografie dedicate ai registi di maggior interesse. Dunque Michael Moore, questo regista da amare o odiare, no? Prendere o lasciare, verso il quale comunque assumere una posizione. Michael Moore, che con una serie di documentari sotto forma di inchiesta, di denuncia, di teorema, ha rimesso di fatto il cinema anche sulla mappa della politica, e ne parliamo per l'appunto con Federico Ferrone, l'autore della monografia su questo autore, che abbiamo in collegamento diretto. Buon pomeriggio Federico. Buon pomeriggio a voi. Allora, aiutaci un po' a capire, a presentare questa nuova uscita, questo nuovo exploit di Michael Moore. Prima di tutto, sì, grazie a lui, insomma, cinema e politica sono tornati a saldarsi, è un dato di fatto, no? È un dato di fatto, si stando al successo appunto spaventoso dei suoi film, sono tutti tra appunto i più grandi successi documentari della storia. Ma questo nuovo film, diciamo, non differisce come impostazione molto da quelli precedenti, appunto, dove aveva attaccato Bush, aveva attaccato la sanità privatizzata americana. Ha forse però una differenza sostanziale, nel senso che stavolta Moore si presenta come una specie di vincitore morale. Se prima arrivava a fare questi film, come dire, in controtendenza contro il sistema, stavolta è quasi la realtà della crisi americana che gli dà ragione, per cui dopo 20 anni passati a denunciare la deindustrializzazione, l'avidità delle case farmaceutiche, delle grandi corporation, dei politici, adesso si trova appunto davanti a una crisi vera e propria, e quindi gli americani per la prima volta, probabilmente anche non americani, lo seguono. Può dire, quindi, ve l'avevo detto in un certo senso. Beh sì, dopo 20 anni se la gode, diciamo. Ecco, però al centro della polemica, spessissimo, quando si parla di Moore, c'è il suo metodo, no? Il suo metodo di indagine, che è stato a più riprese criticato. Ecco, dal tuo punto di vista me lo descrivi, e soprattutto mi fai capire se lo ritieni affidabile, no? Nel descrivere una situazione, un centro di crisi, qualcosa. Beh, è affidabile nella misura in cui lo si conosce, certo non è obiettivo e cartesiano, però questo, come dire, non è neanche una vera e propria novità nel cinema documentario. Altri autori meno conosciuti in realtà intervenivano sempre nella realtà, commentavano con una voce fuori campo, quindi lui arriva e sicuramente modifica, che poi questo significa che dica cose false, secondo me non è vero, quindi conoscendo il gioco si può accettare anche quello che dice. Ritieni che Moore in un certo senso abbia aperto una strada, abbia solcato una strada percorsa da altri filmmaker, abbia in un certo senso creato un genere? Ha sintetizzato tendenze che appunto esistevano nel documentario da anni, però magari in autori molto, molto meno conosciuti. Da quando è apparso lui è un dato di fatto che molti si sono messi a fare come lui, a intervenire nel documentario, a porre domande scomode, a mescolare documentari, film, finzione, musica e tutto quanto. E quindi il risultato botteghino che ha avuto è evidente, che lui appunto ha riportato il documentario nell'interesse dei grandi festival, del grande pubblico. Cosa interessante, anche un documentario di tipo diverso, perché non sono solo documentari alla Michael Moore che adesso interessano il pubblico un po', certo, di tutto il mondo, certo. Quindi lui, al di là del metodo, che, come dire, è discutibile di per sé, non c'è bisogno di, secondo me, di tornare sul fatto che non è obiettivamente vero al 100% quello che dice. L'importante è che lui comunque il documentario lo ha fatto tornare, e quasi in un certo senso sta fondendo documentario e finzione. Anche i film di finzione adesso, forse da 2001 in poi, pescano nel mondo del documentario. In un certo senso a lungo, no, i cinefil più raffinati hanno un po' storto il naso, no, davanti a Michael Moore, abituati a una documentaristica di ben altra, sì, certo, di ben altro livello. Sì, mi sono anche un po' divertito, ma non sono certo io che l'ho scoperto, a citare anche dei paragoni più illustri, più cinefil, come Jean Rouch, certo, che è considerato, certo, un maestro del cinema verité. Jean Rouch, che pure si forma nel cinema verité, era uno dei primissimi già da 1960, che interviene, che fa domande, che interrompe, che fa recitare i personaggi che in teoria dovrebbero essere documentati. Quindi appunto, come dicevo prima, basta saperlo questo, basta conoscere le regole, poi non bisogna precludersi nessuna via. Il documentario può essere tante cose. Senti, per concludere, nella fattispecie riguardo a questo Capitalism che è in uscita in Italia, lo classifichi tra i prodotti più riusciti, più funzionali di Michael Moore, o ti sembra un po'... Sicuramente tra i più, come dire, quelli in cui il meccanismo è più oliato, tutto funziona perfettamente dall'inizio alla fine. Secondo me, come ho scritto nel libro, per chi lo leggerà, si chiude un'epoca. Secondo me questa è una previsione, non so se sarà vera, lui lo ha già accennato, con questo un certo senso il cerchio si chiude. E poi che fa? E poi secondo me tornerà alla finzione, lo ha detto anche lui, lo ha già detto nel passato, ma secondo me stavolta veramente lui ha voglia di passare ad altro. Comunque questo ce lo diranno gli anni che vengono. Bene, grazie a Federico Ferrone. Vi ricordo la sua monografia dedicata a Michael Moore, che porta appunto il nome del regista, mentre il film in questione, Capitalism e Love Story, esce nei prossimi giorni anche nelle nostre sale. Abbiamo avuto un film in testa e in coda e in mezzo alla realtà, e poi per fortuna questi film che si infilano un po' negli interstizi della realtà per renderla magari un po' meno rocciosa. Questo è Buongiorno America, sono gli echi del grande paese che si sveglia, ve li racconta Stefano Pistolini, in redazione Gloria Guerrera, in regia Valerio Rocchetti a Roma e Filippo Aureggi a Milano. Email buongiornoamerica@radio24.it, pagina Facebook si chiama Redazione Jefferson 3, replica dopo mezzanotte, diretta dopo 1:30 qui su Radio 24. State tutti bene.